caso, strano, strano caso, altra mano sul mio naso. 48, scappellotto, 36, sono miei, 21, gioco d'uso, colombina, sperma nervoso, me la data colombina, e c'è fatta venturina. Avventurina! Avoli con venti per guarir la scabbia!